Riprendendo il nostro discorso sull'incipit come momento fondamentale della narrazione, avevamo fatto l'esempio appunto del modello fiabesco di Cenerentola distinto da quello di Pollicino. Il problema narrativo posto dal modello Cenerentola è: come vado via da qui? E quindi l'attenzione narrativa è tra un inizio posto in un determinato luogo, con determinati personaggi collaterali, con una situazione di un certo tipo, e la fine che rappresenta, attraverso una metamorfosi radicale, l'approdo verso un altrove, quindi il cambiamento di status. Diversa invece è la problematica narrativa posta nel conflitto, nella tensione tra inizio e fine nel modello rappresentato da Pollicino. Il problema di Pollicino è come ritorno a casa, quindi come ritorno indietro. È come se lo sradicamento posto come situazione iniziale e quindi il confluire in un altro mondo rappresentino per Pollicino la ragione scatenante per ritornare indietro, per ritornare quindi al suo mondo di appartenenza, con la differenza che per lui il cambiamento sarà saturare la perdita iniziale attraverso anche il recupero, l'impadronirsi di ricchezze, quindi che potranno soddisfare e colmare quella mancanza che è stata la ragione poi della sua separazione, del suo abbandono. Ogni storia quindi, nel momento in cui crea una tensione narrativa tra l'inizio e la fine che prevede, è la messa in scena di un immaginario ben preciso su ciò che possono rappresentare le origini o appunto le fini. Ed è un immaginario che va oltre ovviamente il testo di narrazione, appartiene ai vissuti personali, appartiene alla cultura di appartenenza, ai codici simbolici che condividiamo con la cultura di appartenenza. Tanto tempo fa lessi in un bellissimo libro di semiotica di Lotman una sua riflessione su come tutte le storie che sottolineavano l'importanza delle origini, come appunto quella di Pollicino, erano storie che fondamentalmente avevano un forte radicamento a livello di immaginario culturale con il passato, quindi con gli avi, con il sistema della tradizione in quanto sentita come qualcosa di ereditato da conservare, da recuperare, da rivitalizzare. E quindi questo tornare indietro rappresentava anche il conflitto esistenziale di chi veniva sradicato per varie ragioni, povertà, miseria, esilio e via discorrendo, e il ritorno a casa era il ritorno anche all'infanzia, quindi il recupero di una dimensione quasi epica del proprio essere, no? Su questo pianeta, del diventare soggetti di una storia che è quasi ricucire una ferita originaria, appunto. Mentre tutte le storie, secondo Lotman, che puntavano verso il futuro, quindi accentuavano invece l'epica quasi della fine del racconto, erano le storie in cui l'altrove, l'utopia, la dimensione altra del cambiamento, la possibilità di un futuro quasi inimmaginabile erano prepotenti, quindi erano tutte le storie in cui la tendenza al progresso e la fede nel progresso erano estremamente radicate, o forse, se non radicate, giovanilmente praticate, quindi con un senso di rapporto forte con l'avanguardia culturale del tempo. È molto interessante questo parallelismo, perché questo ci permette di non dimenticare che ogni narrazione, ogni testo che noi leggiamo è sempre lo specchio del mondo sociale e dell'immaginario culturale di cui fa parte, e che chi scrive, e così come d'altra parte chi legge, non è soltanto una persona esperta di tecniche narrative, è una persona che è ben radicata nella propria cultura attraverso la lingua che utilizza e che rappresenta, tutto un corredo di appartenenza con le proprie origini, che può essere conflittuale, può essere pacifico, ma comunque è lì a testimoniare questo legame, ed è una persona che vive dentro un ambiente sociale e non ne registra attraverso la narrazione la cronaca di questa società e di questi meccanismi, ma proprio attraverso la narrazione invece compie un'operazione di mimesi, quindi di rappresentazione, diciamo, più complessa, un'alterazione attraverso la finzione, attraverso la fantasia, attraverso la rielaborazione fantastica di qualcosa che comunque è sempre una percezione di sé e del mondo. Così come quando noi leggiamo, proiettiamo il nostro vissuto all'interno delle pagine, ci immedesimiamo con il personaggio proprio attraverso le coincidenze, le analogie di vissuti e di condivisioni di orizzonti culturali. La formula inaugurale da cui prende le mosse una storia può essere ovviamente codificata in tanti modi secondo il genere di appartenenza. Abbiamo fatto l'esempio delle fiabe perché ovviamente è quello più eclatante, il c'era una volta, così come la formula conclusiva nelle fiabe tendenzialmente è e vissero felici e contenti. Il fatto che ci siano questi due momenti forti di apertura e di chiusura è molto importante perché ci sono degli indizi e dei segnali che ogni genere letterario mette a disposizione dello scrittore e soprattutto del lettore per essere percepiti e riconosciuti come segnali di inizio e di fine. Questo momento iniziale è il momento di cattura della nostra attenzione. Io attraverso l'incipit vengo proiettata all'interno di un mondo possibile che gradualmente si costruirà davanti ai miei occhi e che mi deve convincere intellettualmente ed emotivamente a restare lì, nella pagina, quindi a diventare, a esercitare la mia attività di lettore. Il fascino, chiamiamolo così, quella captatio benevolentiae che la retorica appunto suggeriva da porre proprio all'inizio di ogni discorso, può essere fondamentalmente costruita attraverso mille espedienti. Lo stile. Lo stile è quella formula incantatoria che utilizza la grammatica, la sintassi, il lessico, l'aggettivazione, il ritmo delle frasi, l'originalità di una descrizione, la modalità di entrata in scena del personaggio, la presentazione stessa del personaggio, l'escamotage di un punto di vista che immediatamente o improvvisamente cambia, l'entrata di più punti di vista, cioè tutte le tecniche che permettono immediatamente di costruire una promessa e attraverso questa promessa di innescare un contatto, sollecitare una curiosità e a quel punto, tra virgolette, coattare il meccanismo della lettura. È ovvio che questa premessa promessa deve fondamentalmente quindi creare una situazione di attesa. La cosa interessante è che normalmente si pensa che la suspense sia un espediente che viene utilizzato a un certo punto del racconto e soprattutto nei romanzi gialli. In realtà la suspense è una tensione, è un modo di creare aspettative che è proprio l'espediente più tipico, più forte della captatio benevolentiae delle pagine iniziali, perché è quella che permette di creare attesa. E siccome l'attesa è insostenibile, in realtà se è portata avanti con un'intensità molto violenta, diventa la suspense tipica del giallo, del thriller, dell'horror, che deve essere risolta il più presto possibile, con un'uccisione, con qualsiasi atto che comunque concluda quell'attesa. Invece, fondamentalmente, il tipo di sospensione, di suspense, che l'incipit fa scattare, quindi è un'aspettativa più ampia, più generica, che appunto in realtà solleva la voglia di sapere come andrà avanti, quindi l'incantamento rispetto alla storia, l'aggancio. L'aggancio con il lettore può avvenire alle primissime righe, come può avvenire a metà pagina, come può avvenire alla pagina successiva, ma deve essere costruito attraverso dei segnali, degli indizi, l'aggettivo scelto, il ritmo della frase, l'originalità del luogo, il modo con cui entra in scena il personaggio. La forza del discorso gioca tutta la sua attrattiva verso di me che leggerò e la capacità di promessa di un testo esercita tutta la sua potenza proprio nelle primissime pagine. Quando parliamo quindi di stile, non dobbiamo riferirci soltanto alla superficie delle parole, della lingua. Lo stile è un modo di osservare, è un modo di vedere, è un modo quindi di costruire un mondo. Di osservare perché chiaramente chi scrive rappresenta e riproduce una sua idea di mondo. E costruisce poi un mondo possibile che è ovviamente altro dal mondo reale. È fatto di un impasto tra vissuti personali, appunto condizionamenti sociali, cultura, simbolico e probabilmente anche da tantissimi altri libri che ricorda, che cita più o meno dichiaratamente. E lo stile costruisce anche un ritmo e una velocità della scrittura che deve essere il più possibile aderente ai tempi, al tempo, al respiro, al fiato che quel racconto avrà. E ci sono ovviamente delle risonanze immediate, a volte istintive, di empatia, perché il ritmo di un discorso, il ritmo di una narrazione, il ritmo della storia rientrano nei ritmi del lettore. Comunque c'è questa sorta di immediata risonanza, di percezione di una familiarità o di un piacere e di uno stimolo, oppure c'è proprio invece una discordanza, come se quel ritmo, quella velocità della narrazione, quel modo anche di concatenarsi della storia non appartenga quasi al ritmo personale del lettore che non riesce a entrare dentro questa dimensione. Al di là delle teorizzazioni sul narratore onnisciente che sa tutto più dei personaggi, che li muove come burattini e che ha rappresentato un po' tutta una grande parte della narrativa ottocentesca, noi viviamo ormai in un'epoca di narrazioni in cui l'io, la prima persona, abbonda nelle nostre storie, perché si è ristretto anche il mondo da raccontare, nel senso non c'è più quella visione appunto ottocentesca di poter comprendere, osservare, spiegare il mondo e quindi creare storie in cui gli eventi nella loro concatenazione fossero in qualche modo rappresentativi addirittura delle cause stesse delle cose che accadono nella realtà. Quindi questa fiducia che fondamentalmente il mondo fosse comprensibile, spiegabile, intellettualmente dominabile. Questa convinzione ovviamente è caduta e come in una bellissima pagina di critica letteraria De Benedetti ha sottolineato, cadendo questa credenza, questa fiducia nel mondo, ovviamente nella narrazione stessa il soggetto, il protagonista si è frantumato e il mondo da esplorare e da indagare è diventato se stesso, quindi il suo io, la sua identità perduta o divisa in due, spezzata nel bene e nel male, o nel bipolarismo emotivo, nelle doppie personalità. È un mondo sempre più, tra l'altro, frammentato anche linguisticamente. La sintassi non è più un modo di dare ordine alle cose e quindi chiaramente alle grandi strutture di coordinate e di subordinate subentra un linguaggio sempre più minimalista, sempre più frammentato, ricchissimo di punti fermi, che perde l'idea di essere una partitura articolata, cadono i punti e virgola e quindi si assiste fondamentalmente a un mondo narrato sintatticamente a blocchi paratattici. Tutto questo è una tendenza, ovviamente. Poi all'interno di questa tensione, direi social-narrativa, cultural-narrativa, è chiaro che ogni autore e autrice poi ha la sua visione del mondo e quindi poi stabilisce un rapporto con la scrittura, con il lessico, con la sintassi, con il ritmo e con l'aggettivazione, che è il frutto di un rapporto con la materia che andrà a trattare e con il mondo di cui vuole narrare. Però la cosa appunto interessante è come tutti questi ingredienti rappresentino poi gli elementi di contatto con il lettore e quindi anche il punto, la scelta di un punto, di una frase lunga, di una subordinata o di una scrittura a blocchi paratattici è anche la rappresentazione non solo dello stile testuale, discorsivo, ma è la rappresentazione, già un'anticipazione quasi grafica, quasi visiva, quasi uditiva, se leggessimo ad alta voce quelle pagine, del mondo che verrà narrato. La prospettiva nel lavoro della scrittura come scelta della scrittura in prima persona, della narrazione in prima persona o della terza, Oppure la scelta del discorso indiretto libero, cioè scegliendo la terza persona, ma usando come punto di vista quello del personaggio, insomma una finta terza persona, sono delle scelte che ovviamente costruiscono tutta la visione stessa della storia. Sono la voce, non solo del personaggio, sono la voce, la timbrica che avrà quella storia. Se l'autore sceglie il discorso indiretto libero, cioè si mette dal punto di vista di un personaggio, assumendone il linguaggio, oppure scegliendo di dare pari esistenza e valore a più personaggi, noi assistiamo completamente anche a un cambiamento dell'interesse, a una segreta scelta che come lettori faremo seguendo più o meno le storie relative a quei personaggi. E la bravura della scrittura, ovviamente, è anche in parte anticipare queste preferenze, convogliarle, indirizzarle. Posso scegliere di amare il personaggio antagonista, così come invece di amare il personaggio, tra virgolette, che svolge la funzione dell'eroe. Posso, in un racconto corale, penso ai Malavoglia di Verga, tanto per citare un classico, posso sicuramente rimanere incantata dai personaggi più anziani e forse meno coinvolta da quelli irrequieti e giovani che già rappresentano in qualche modo il declino di quel mondo. E queste preferenze sono già dentro la scelta di presentazione dello scrittore, riverberano anche le sue preferenze, anche se non c'è mai la precisione di una coincidenza esatta. E questo poi in fondo il rischio e anche, come dire, la scommessa del rapporto tra scrittore e lettore. Queste scelte di prospettiva sono fondamentali nell'incipit, perché daranno il tono, l'intonazione giusta a tutto il racconto e sono ovviamente, dal punto di vista di chi scrive, una scelta fondamentale che deve essere poi il filo coerente di tutta la narrazione. Non ci resta quindi che darci appuntamento alla prossima puntata, dove affronteremo in maniera a questo punto invece ben focalizzata i vari aspetti della narrazione, se iniziare con una descrizione, se iniziare con l'entrata in scena immediatamente di un personaggio, se entrare nella narrazione attraverso le battute di un dialogo o entrare in medias res utilizzando subito le azioni, i fatti. Alla prossima volta.